primo minuti da lunga via, chi venia tu va Maria, Maria la trovata tutta d'oro coronata, Madonna tu pintiruto da lontano siamo venuti, da grazia ti cercavo e fammi la carità. Ci torno.